ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Auto che galleggiano, persone che nuotano nelle strade allagate, forse 2 vittime e 10 bambini ricoverati per ipotermia. Eccolo il quadro di Palermo ieri per la violenta alluvione che ha investito la città e che ancora stamattina lascia molte tracce. Nessuna allerta meteo, dice il sindaco, e un territorio dunque che continua a scoprirsi fragile per l'ennesima volta. Per il resto è stata una giornata ancora all'insegna di autostrade. Dopo l'accordo trovato in maggioranza e coi Benetton per l'ingresso dello Stato e l'uscita di questi ultimi, a che prezzo? Ancora non si sa, ma sarà nodo sia economico che politico. Politica che vede PD e 5 Stelle, e i 5 Stelle al proprio interno, ritrovare un'apparenza di unità e di sostegno a un Presidente del Consiglio che fino a 2 giorni prima sembrava in difficoltà. Unità che si ritrova anche alla luce della candidatura unica, appunto, di PD e 5 Stelle, con l'esclusione di Italia Viva, per la presidenza della regione Liguria. Sarà Ferruccio Sanza. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Le 6:33 minuti e 44 secondi di giovedì 16 luglio, care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, eccoci qua con Carmelo Lauricella in regia, Miriam Lucchetti in assistenza, Giorgio De Luca in assistenza in redazione insieme ad Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori, e voi. 349-238-6666 se volete intervenire, se volete dire la vostra. WhatsApp audio, SMS, WhatsApp scritti ovviamente. Se siete di Palermo, se siete a Palermo e volete raccontarci un po' come è andata ieri, come stanno andando le cose questa mattina. Siamo qua. I racconti sono veramente impressionanti. Prendete quello di Fabrizio Ferrandelli, che è il capogruppo in comune dell'opposizione, quindi poi se la prende anche col comune. Però, insomma, se la cava per il rotto della cuffia, eh? Noi siamo riusciti ad uscire per miracolo e a tirare fuori altri bambini e altri signori dalle macchine. I soccorsi sono arrivati in ritardo. Quello che vedete qui intorno è veramente un disastro. Noi abbiamo perso insieme ad altri la macchina, non sappiamo più dov'è. Noi riteniamo che in una città civile come la nostra è inaccettabile pensare che con poche gocce di una pioggia di luglio si possa rischiare la vita in questa città. Beh, poche gocce, pare che sia stato un diluvio come non se ne vedevano da 200 anni, eh? Poi che ci sia una fragilità del territorio è indubitabile. Ancora Ferrandelli, va. Ma quale cazzo di tram, infrastrutture, quando qui mancano le opere infrastrutturali necessarie? Stiamo parlando delle fognature, stiamo parlando delle vie di fuga, stiamo parlando della sicurezza dei nostri concittadini. Siamo stati tratti in salvo non dalla protezione civile comunale, non dalla capacità organizzativa del comune di Palermo, ma dalla solidarietà che fra di noi si è mossa tra tanti palermitani. Ovviamente la voce dell'opposizione è come quella di Salvini che twitta in pieno nubifragio, con le strade allagate, con la ricerca delle due vittime, con i bambini in ipotermia in ospedale, twitta e il sindaco Orlando intanto pensa ai migranti. Oh. La dico proprio così, un po' di calma, un po' di calma. Magari si può anche aspettare a mettere le mani su Twitter, si può aspettare. 48 ore in più non cambiano niente nel messaggio che si vuole lanciare. I stepped out of Mississippi when I was 10 years old. E poi, giornata di ieri, come si diceva, caratterizzata dalla questione autostrade. E qua è una questione di prezzo, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Quale prezzo? Quanto vale autostrade? E quindi, quanto incasseranno i Benetton dalla vendita, dalla cessione delle quote di autostrade? Considerate che autostrade veniva valutata prima di tutto questo, insomma, un anno fa circa le banche d'affari la valutavano intorno ai 12 miliardi. È chiaro che non saranno tutti i soldi che entreranno nelle casse di Atlantia, l'azienda controllante. Però, l'idea che qualcosa entri, appunto, nelle casse della famiglia che controlla autostrade, Conte comunque si dice soddisfatto. Presidente, soddisfatti? Siete soddisfatti, mister? Sì, siamo soddisfatti. Mi sembra che siamo abbastanza soddisfatti. È un altro dossier che abbiamo ricondotto, come dire, alla ragione, diciamo così. Per Salvini è l'ennesima presa in giro. Ennesima presa in giro. Nessuna revoca ad autostrade, come promesso, anzi, altri milioni di euro pubblici spesi e stamattina solite drammatiche code su tutte le autostrade della Liguria con cantieri fermi. Si dovevano passare tutta la notte per decidere di non decidere, per me si male. Poi magari qualche altra voce ce la sentiamo, però fatemi salutare Marianna Aprile. Ciao Marianna, come stai? Buongiorno, eccoci. Giornalista, autrice del Grande Inganno, First Lady, Nemiche Perfette ed Eroine Silenti. Io lo cito sempre, Marianna, ogni volta che ci sentiamo, perché dato che mi è piaciuto, è così la politica nasconde le donne. Lo immagino, l'hai scritto. Ascolta Marianna, al di là della questione economica, che sarà una questione da vedere, perché ripeto, bisognerà vedere quale sarà il prezzo, effettivamente che cosa succederà, ci sarà l'ingresso della Cassa Depositi e Prestiti, c'è una grande discussione sullo Stato in economia, perché poi insomma c'è stato sganciamo i soldi ad Alitalia, Ilva non si sa come va a finire, però è prevedibile che anche là lo Stato finisca per metterci mano. C'è una riflessione generale su che cosa debba fare lo Stato in economia in questo periodo, però c'è anche una questione strettamente politica, ossia il fatto che molti interpretano quello che è avvenuto nella notte come una vittoria del binomio Conte-Gualtieri, di Conte in particolare, ma del binomio Conte-Gualtieri. Sì, diciamo al netto di tutti i trionfalismi, perché a sentire le dichiarazioni di ieri, a leggere i giornali di oggi, non c'è uno che abbia perso in tutta questa storia, sì, che pure sì. diciamo, a seconda del giornale che leggi, no? Perché sì, ma una storia dall'altro in cui c'è stato molto a perdere negli ultimi 23 mesi, improvvisamente hanno vinto tutti, ma diciamo anche al netto dei toni da balcone e abbiamo abolito la povertà, c'è un tema, cioè Conte si è oggettivamente rafforzato non solo diciamo nel governo, proprio con l'asse con Gualtieri, che diciamo è un asse che torna utile anche per i prossimi di dossier, quindi diciamo è stata una prova generale, ma anche all'interno del Movimento 5 Stelle, e lo dimostrano molte dichiarazioni, anche in primis quella quelle di Di Maio di queste ore. Il punto vero che rendeva cruciale questo passaggio, al di là della necessità di metterci un punto e di dirimere la questione dopo tentennamenti vari portati avanti da tutti i protagonisti della vicenda, a rendere cruciale questo passaggio era proprio diciamo l'assetto che avrebbero trovato le tensioni all'interno della maggioranza, sì, e le tensioni all'interno del Movimento 5 Stelle, che di questa cosa della revoca aveva fatto, come di altre poi diciamo su cui ci sono state delle retromarce, una bandiera quasi identitaria, sposata fino a due giorni fa anche da Conte, che però è riuscito in questo, devo dire, lui ha usato il termine capolavoro per la decisione, io lo userei diciamo per le manovre che hanno portato alla decisione, è riuscito a diciamo a fare una retromarcia di cui di fatto non paga lo scotto in termini di credibilità e di consenso, probabilmente, cioè riesce a scaricarla un po' su chi gli sta intorno. Sì, rimane molto più scaltro politicamente di quanto molti non lo diano, Marianna. Impara in fretta, se pensiamo che due anni fa faceva, sì, diciamo, si occupava di diritto civile e di beghe legali tra privati, aziende, eccetera. Diciamo in due anni lui, per capacità sue e diciamo, con il giusto entourage, evidentemente è riuscito a capire come ci si muove tra i coltelli che volano a Palazzo Chigi e nelle aule del Parlamento. Detto questo, l'unico che forse ne esce male è proprio lo Stato. Se vogliamo proprio diciamo tirare una somma al netto delle beghe politiche tra i singoli e dei riposizionamenti vari, l'unico che ne esce male è lo Stato. Uno Stato che in questa vicenda ha fatto errori madornali, in primis quello di personalizzare la vicenda, quindi non affrontare il problema ma affrontare la famiglia Benetton. E ha fatto l'errore di cambiare in corsa le regole, ricordiamo tutti, no? Il milleproroghe, certo. Le penali, cioè è la credibilità dello Stato che tutto sommato non esce un po' azzoppata, e in un momento in cui dobbiamo fare cercare nuovi investitori per Aspi, fare delle trattative anche internazionali in cui la credibilità è tutto, cioè io non lo so quanto questo possa essere benefico. Sicuramente non è un caso forse anche la battutina che Angela Merkel, ne parlavamo nei giorni scorsi, ha fatto alla fine della conferenza stampa con Conte. Sono proprio curiosa di vedere come va a finire questa storia di autostrade, ed è prevedibile, come si diceva, che i due ne abbiano parlato, perché lo ricordiamo, dentro Autostrade un 7% del capitale di Autostrade è detenuto da un veicolo comune fatto dai francesi di EDF, da Allianz, dai tedeschi di Allianz e poi dagli olandesi. È un tema questo, sicuramente. Ho ancora su Autostrade e Dibba, lo sentiamo Dibba, Carmelo, Lauricella, vai. Io credo che in questo momento, se ci fosse una mosca all'interno della casa, della villa dei Benetton in Veneto, potesse riportarci quello che si dice dentro quella casa, probabilmente Benetton... Sì, io credo che stiano dicendo, ma è possibile che in questo paese, dove ci sono stati scandali su scandali, alla fine i grandi gruppi industriali potenti l'hanno sempre fatta franca in qualche modo, portando alla lunga ogni decisione, alla fine riuscendo, anche finanziando i gruppi politici a farla franca, è possibile che se la siano presa soltanto con noi? Com'è la vena narrativa di Alessandro Di Battista, Marianna? Mi sembra un po' deboluccia quest'idea dei Benetton. A parte si dice Benetton, e diciamolo, si dice Benetton, va bene, sono veneti, si dice Benetton. Perché magistrale pezzo di Battezzaghi di qualche giorno a proposito dell'accento. L'accento va sulla O finale, Benetton, e quest'idea che nella loro villa sono là e dicono ma possibile che in questo paese, nel quale nessun grande gruppo industriale paga eccetera, paghiamo solamente, no, un po' deboluccia come narrazione quella di Battista. Traffico. Quest'estate puoi tuffarti nel mare cristallino di spiagge paradisiache, scalare le montagne più alte e ammirare panorami mozzafiato, perderti tra i borghi storici e i meravigliosi parchi e provare più di 1000 specialità diverse, senza andare lontano. Riscopri l'Italia con noi. Quest'estate raggiungi le bellezze del nostro paese con Trenitalia e goditi le tue vacanze in modo sicuro e confortevole. Info su trenitalia.com. Mattino. Buongiorno Spezia, sì, ma tutti sti miliardi ai Benetton come li restituiamo? Non era meglio lasciargliela sta concessione e obbligarli ad esempio ad abbassare le tariffe autostradali, ad una manutenzione più stringata? No, abbiamo soldi a buttare? Cosa che risponde in parte anche all'ascoltatore che dice: state facendo questioni di lana caprina, si trattava di tutelare 7000 posti di lavoro e non facendo tirare fuori soldi agli italiani. Guardi, gli italiani i soldi li tirano fuori perché Cassa Depositi e Prestiti è controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, non da qualcun altro, e allo Stato è roba nostra, roba di noi italiani. E sulla questione invece che pone l'ascoltatore, il tema della revisione della concessione, ma guardi, per carità, è una mia opinione personale, però dico che quando delle cose si fa una questione quasi ideologica, arretrare poi diventa particolarmente difficile. Nel momento nel quale sventoli la revoca come unica via d'uscita per 2 anni, poi è difficile trovare una soluzione diversa. La stessa Avvocatura dello Stato, non io, l'Avvocatura dello Stato diceva, ha detto nel suo parere del febbraio scorso, che la cosa migliore sarebbe stata rivedere la concessione. Cioè la soluzione più semplice sarebbe stata rivedere la concessione. Si è deciso di procedere per questa strada, vedremo dove porterà, magari è una buona strada, e non voglio entrare in questo, però dico che quella possibilità era la possibilità prospettata anche appunto dall'Avvocatura dello Stato. E a proposito di questioni ideologiche o di posizioni che si prendono molto dure e che poi non consentono di arretrare, c'è tutta la questione del MES, il Fondo Salva Stati. Non scordatevi che domani c'è un Consiglio europeo. Ieri il Presidente del Consiglio è intervenuto in aula in vista appunto del Consiglio europeo. E Conte ha parlato, ha detto che bisogna riconoscere che c'è stata una sensibilità da parte della Commissione, da parte dell'Unione europea. Mai come in questa occasione dobbiamo riconoscere che le istituzioni dell'Unione Europea si sono mostrate sensibili agli strumenti con i quali il mio governo, già nelle fasi iniziali della pandemia, ha cercato di leggere e di interpretare la natura e la portata della sfida che avevamo e abbiamo ancora davanti. Così Conte, così Giuseppe Conte. Per Giorgia Meloni il rischio che si accetti il MES, il Fondo Salva Stati, in questa nuova formulazione, o meglio, la nuova formulazione del prestito del Fondo Salva Stati, quello solamente per le spese sanitarie, sarebbe un atto di sottomissione. È diventato un ricatto, banalmente, perché il Fondo Salva Stati è un atto di sottomissione, perché le condizionalità ci sono e come. E noi dovremmo consegnare le chiavi di casa nostra per risparmiare massimo forse 500 milioni di euro l'anno di interessi sul debito su una spesa complessiva di 900 miliardi di euro l'anno? Volete risparmiare 500 milioni e togliete il bonus monopattino, togliete il bonus per i 500 euro ai diciottenni. Avete già risparmiato 500 milioni, il gioco non vale la candela. Ho detto ovviamente che gli interessi sul debito non sono 900 miliardi l'anno, ma intorno ai 60-70, tra i 60 e i 70. Cosa ancora da questa giornata? Oh, nell'ambito del dibattito europeo, a proposito di interventi curiosi dal punto di vista narrativo, sta diventando un po' sta diffondendo parecchio l'intervento di Giglio Vigna, deputato della Lega. Sentite qua. Ci aggrappiamo ai valori di Legnano 1176, ci aggrappiamo ai valori di Pontida 1167. E signor Presidente, noi promettiamo al nostro popolo, ai nostri cittadini, che è come San Michele con il diavolo, l'Alberto da Giussano della Lega vincerà sul dragone cinese, vincerà la vostra UE, il vostro governo di sottomessi. Com'è Marianna? Com'è Giglio culto, Vigna? Aiuto, mi culto, viene da dire solo aiuto. Culto no, assoluto. Sul pezzo, contemporaneo. Culto assoluto. La Lega cerca di ritrovare un'identità ripescando vecchi Alberto simboli. da Giussano che sconfigge il dragone cinese, diciamo, da qualche tempo era poco più di una spilletta sui baveri dei parlamentari leghisti, però evidentemente all'interno della Lega ci sono dei movimenti di recupero dell'identità originaria, e questo forse ci dice qualcosa anche sulla posizione di Salvini, no? Sì, sicuramente. Vedremo come andrà da questo lato. Anche voglio solo un'ultima risposta prima di andare a chiudere a più di un ascoltatore che fa notare, giustamente dice, i guadagni che finora sono andati ai Benetton, con l'accento sulla O, adesso presumibilmente andranno allo Stato, andranno a Cassa Depositi e Prestiti, che diventerà azionista. Sì, ovviamente c'è anche questo elemento, cioè non è detto che sia un'operazione, necessariamente un'operazione in perdita per lo Stato. Di certo per il momento i soldi ce li mettiamo come cittadini italiani, e bisogna vedere poi dal punto di vista finanziario quale sarà la contropartita che avrà Atlantia, perché appunto da questa operazione per la cessione delle quote ne parleremo ovviamente anche in rassegna stampa, perché ci sono parecchi elementi dai giornali anche sul fronte politico. Cara Marianna Aprile, alla prossima, ciao. Ciao, buona giornata. Buona giornata. GR24, ci ritroviamo subito dopo appunto con la rassegna stampa. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.